152. Frittata con la pietra di vitella di latte. Prendete una pietra, rognone, di vitella di latte, apritela dal lato della sua lunghezza e lasciatele tutto il suo grasso. Conditela con olio, pepe e sale, cuocetela in gratella e tagliatela a fettine sottili per traverso. Sbattete delle uova in proporzione della pietra, condite anche queste con sale e pepe e mescolate fra le medesime un pizzico di prezzemolo tritato e un poco di parmigiano. Gettate la pietra nelle uova, mescolate e fatene una frittata cotta nel burro, che quando la parte di sotto è assodata, ripiegherete per metà onde resti tenera. Paste e pastelle. . 153. Pasta matta. Si chiama matta non perché sia capace di qualche pazzia, ma per la semplicità con la quale si presta a far la parte di stival che manca in diversi piatti, come vedrete. Spegnete farina con acqua e sale in proporzione e formate un pane da potersi tirare a sfoglia col matterello.